Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. 25esima puntata. Quando raggiungemmo Robby, cercammo di metterci a camminare, ma i suoi passi erano così lunghi che eravamo costretti a correre per stargli dietro. Superammo i fast food di Clapham Road, passammo sotto il ponte della ferrovia e la stazione metropolitana di Clapham North. Finalmente Robby si fermò, sciolse le braccia e disse: «Ho bisogno di fermarmi da qualche parte, soltanto un minuto». Alla nostra sinistra c'era un giardino pieno di erbacce, con al centro una chiesetta bianca abbandonata con alcuni gradini davanti al portale. Robby ci guidò fin lì. Dopo essersi fatto un po' di spazio tra le foglie, si sedette e accese una sigaretta. «Lo sapete, è un sogno», disse soffiandosi sui piedi un filo di fumo. «È un sogno. Adesso lo faccio solo 2 o 3 volte all'anno. Ma quando ero più giovane, al college per esempio, lo facevo 1 volta alla settimana. Ho imparato a controllarlo. Spesso mi rendo conto che sta per arrivare e in notti come quelle cerco di non addormentarmi. Comincia sempre con la nostra automobile che gira l'angolo. Su un lato c'è una specie di campo fangoso, piccolissimo, ma con un palo di porta piantato nel fango. Noi giriamo l'angolo e loro sono là di fronte a noi e ci tagliano la strada. Talvolta è una folla, altre volte soltanto un paio di uomini. Ormai conosco molto bene le loro facce, meglio di quanto conosca quelle dei miei amici. Ce n'è uno con una faccia affilata, baffi sottili e la bocca storta. Lui c'è sempre. La cosa buffa è che, indipendentemente dal numero degli uomini, un paio o 1 dozzina, la strada appare sempre deserta. Era piena di gente quando noi la imboccammo. Il bazar, tutti i negozi aperti, gente che andava e veniva, risciotte, lagari, venditori ambulanti, asini. E c'era gente anche nelle case sopra i negozi. Ci guardavano affacciati alle finestre e ai balconi. Adesso però tutti i negozi sono chiusi, sbarrati. E lo stesso le finestre delle case. Non c'è nessuno sui balconi. Le strade sono deserte, a parte quegli uomini. A volte mi capita di vedere minuscoli dettagli, una noce di cocco verde buttata in mezzo alla strada che oscilla quando il vento la prende di mira, una ciabatta sul marciapiede, non un paio, una sola ciabatta di gomma abbandonata lì. Si sente un rumore, come se qualcuno digrignasse i denti dentro la macchina, che sbanda buttandoci tutti in avanti e io vado quasi a sbattere contro il cruscotto. Qualcuno sul sedile posteriore, credo sia mia madre, ma non ne sono mai stato del tutto sicuro, grida: «Non fermarti, va avanti!» L'auto procede. Infatti l'autista ha soltanto cambiato marcia senza staccare la frizione come avrebbe dovuto. Si muove di nuovo adesso, incerta, a piccoli balzi, perché l'autista è così atterrito che ha perso l'uso del piede destro. È caduto il berretto, è piegato sul volante con il sudore che gli gocciola dalla faccia. La guardia armata, seduta accanto a me sul sedile anteriore, guarda avanti, tamburellando con le dita sulla maglietta. In quel momento gli uomini cominciano ad avanzare verso di noi. Non corrono, scivolano come pattinatori in una gara. Si allargano a ventaglio e poi si richiudono intorno a noi. C'è un silenzio assoluto, non sento niente, neppure il minimo rumore. La guardia armata mi spinge giù e allunga un braccio indietro per assicurarsi che le portiere siano bloccate. Dal punto in cui mi trovo riesco a vedere soltanto la sua uniforme blu, non vedo la sua faccia e non riesco a vedere fuori. Vedo che infila una mano sotto la maglietta e quando la tira fuori stringe una rivoltella molto piccola. È di uno strano colore, una specie di grigio ardesia. La vedo perfettamente perché è a destra, vicino al mio viso. Poi l'auto fila via e all'improvviso si sente un colpo violento sul cofano e qualcuno dietro grida. Allora guardo su, sollevando appena la testa fino alla base del parabrezza, e c'è un'altra faccia dall'altra parte del vetro, con il naso schiacciato e gli occhi che guardano dentro. È l'uomo con la bocca storta e sdraiato sul cofano e mi ha visto. Solleva un braccio e lo tira indietro di slancio. Stringe qualcosa, ma io non so che cosa sia, non riesco mai a vederlo. Il suo braccio cala deciso, facendo un arco sopra la sua testa, e all'improvviso il parabrezza si annebbia e va in frantumi. Quando rivolgo gli occhi all'autista, c'è uno squarcio nel suo viso e lui si preme un brandello di carne cercando di mantenerlo al suo posto, sulla guancia. Non ha più le mani sul volante, la macchina sbanda, rotola avanti e si blocca con una delle ruote anteriori in un fosso. La guardia armata mi costringe ad abbassarmi di nuovo, poi spalanca la portiera e salta giù con la rivoltella spianata. Urla qualcosa, non so che cosa, poi urla di nuovo e si sente uno schianto e io so che ha sparato. Allora guardo fuori dal finestrino e vedo che gli uomini intorno a noi arretrano mentre il rumore dello sparo rimbomba contro le finestre chiuse e i balconi vuoti. C'è un attimo di calma assoluta mentre loro fissano noi e noi fissiamo loro. L'aria è così immobile che riesco a sentire le gocce di sangue dell'autista che cadono sul volante. Poi il silenzio viene rotto. Si sente uno scricchiolio alle nostre spalle. È un suono leggero, ma in quella calma sembra il fragore di un tuono. Ci voltiamo tutti, noi dentro l'auto, loro fuori. E sapete che cos'è? È il risciò di Khalil con il vecchio, il nostro prozio che volevamo mettere in salvo, seduto dietro, tutto impettito, con la sua giacca da avvocato. E mentre guardo, il risciò comincia a crescere. Diventa enorme quel risciò, cresce fino a diventare più grosso dei negozi e delle case, così grosso che non riesco più a vedere il vecchio seduto in cima. Ma quegli uomini corrono verso di lui alla stessa velocità con cui quello cresce, si arrampicano sulle ruote, sulle aste, lungo i fianchi. Ormai ci hanno dimenticati, non c'è più nessuno intorno a noi, sono tutti occupati ad arrampicarsi sul risciò. La guardia armata salta dentro, sogghignando, e grida qualcosa all'autista. Gli sta dicendo di mettere in moto e di partire finché può. Alla sua faccia penserà dopo. E anche sul sedile posteriore urlano, dicendo all'autista di fare in fretta, di partire. L'autista allunga la mano verso la chiave d'accensione. Tende il braccio più che può in tutta la sua lunghezza, ma per quanto si sforzi, non ce la fa. E mentre lui si dibatte per raggiungere la chiave, qualcuno esce da dietro. Sento sbattere la portiera. Quando giro gli occhi, vedo May. È magra, rattrappita, e dietro di lei c'è quel risciò che sembra toccare il cielo come un gigantesco formicaio, con i fianchi affollati da centinaia di minuscoli uomini. May ci grida qualcosa, non sento una parola, ma so che cosa sta dicendo. Dice: quei due stanno per essere uccisi per colpa vostra, siete dei vigliacchi, degli assassini ad abbandonarli così. La portiera si apre di nuovo e dentro di me so che anche Tridip sta per uscire. Allungo una mano per trattenerlo dentro l'auto, ma la mia mano non ce la fa. Cerco di gridare, ma non ho più voce. Non posso emettere neppure il più piccolo suono. E in quell'istante mi sveglio, ansimante, cercando di gridare. Thank you. Roby estrasse un'altra sigaretta e cercò di accendere un fiammifero. Il primo si spezzò e lui lo buttò via e ne prese un altro, lo tenne fermo e accese la sigaretta. Non sono mai stato capace di liberarmi di quel sogno, mai, da quando fece la sua comparsa per la prima volta. Quando ero bambino avevo l'abitudine di pregare affinché se ne andasse. Se se ne fosse andato, non sarebbe rimasto nient'altro a ricordarmi quel giorno. Ma non se ne andava, restava. Di solito pensavo, se solo quel sogno se ne andasse, sarei come tutti gli altri, sarei libero. Avrei dato qualunque cosa per liberarmi di quel ricordo. Rise, fissando la punta luccicante della sigaretta. Libero, disse ridendo. Dovete sapere che adesso, guardando sulle prime pagine dei quotidiani del nostro paese tutte quelle fotografie di gente morta nell'Assam, nel Nord-Est, in Punjab, Sri Lanka, Tripura, gente uccisa da terroristi e separatisti, dall'esercito e dalla polizia, si trova sempre da qualche parte quella parola. Ognuno lo fa per essere libero. All'epoca in cui ero responsabile di distretto e guardavo quelle fotografie, mi capitava di chiedermi cosa avrei fatto se fosse successo nella mia zona. So che cosa avrei dovuto fare. Sarei dovuto uscire e andare a dire ai miei poliziotti: dovete essere decisi a fare il vostro dovere, dovete sterminare interi villaggi se necessario, non abbiamo niente contro la popolazione, sono i terroristi che vogliamo catturare, ma dobbiamo essere disposti a pagare un prezzo per l'unità del paese e per la libertà. E quando fossi tornato a casa, avrei trovato ad aspettarmi un biglietto anonimo con scritto: ti prenderemo, niente di personale, dobbiamo ucciderti per la nostra libertà. Sarebbe stato come leggere il mio stesso discorso trascritto in uno specchio. E allora dico a me stesso, perché non tracciano migliaia di brevi linee sull'intera superficie del subcontinente e non danno un nome nuovo a ogni luogo, anche il più piccolo? Che cosa cambierebbe? È un'illusione, è tutta un'illusione. Come si può pensare di dividere una stessa memoria? Se la libertà fosse possibile, senza dubbio la morte di Tridib mi avrebbe reso libero. E invece, un'osservazione del tutto casuale di un cameriere in un ristorante è sufficiente a far tremare la mia mano come una foglia dopo 15 anni a migliaia di chilometri di distanza all'altro capo di un altro continente. Diede un'alzata di spalle, buttò via la sigaretta e si alzò in piedi. «Credo che dovremmo andare», disse. Allora si alzò anche Ayla, che si era seduta accanto a lui, e mise un braccio attorno alle sue spalle e un braccio intorno alle mie e ci strinse insieme. Restammo così a lungo sui gradini di quella chiesa abbandonata a Clapham, tre figli di uno stato libero, aggrappati l'uno all'altro. Avevo sperato di trascorrere la mia ultima giornata londinese visitando i miei antichi rifugi, West End Lane, Lymington Road, Stockwell e la banchina lungo il Tamigi, per l'ultima volta prima di partire per l'India. La sera sarei andato a Islington perché May mi aveva invitato a cena. Ma per come andarono le cose, la giornata passò in un soffio e quasi mi scordai la cena. Dovetti fare due volte il tragitto da Fulham al West End senza aver ancora preparato la valigia. Una volta, quando scoprii che avevo saltato a pie pari due dei nomi che pensavo di aver già spuntato dalla mia lista dei regali. Corsi per tutta la strada, da casa alla metropolitana di Putney Bridge, con il sudore che mi colava sul viso e la maglietta incollata alla schiena. Quindi mi feci strada in mezzo alla folla di Oxford Street, dentro negozi pieni di gente e di confusione. Poi di nuovo fuori, imbronciato, stringendo i miei piccoli pacchi. Un paio di jeans sbiaditi della giusta misura e colore per un amico di Delhi e un orologio digitale per un amico di famiglia di Calcutta. Poi di nuovo nei budelli della stazione della metropolitana e sul primo treno, tamburellando sul bracciolo del sedile, cercando di evitare lo sguardo torvo del giovinastro di fronte a me, rapato e incuffiato nel suo Walkman. Di ritorno nella mia stanza, tirai fuori tutta la valigia e ricominciai da capo, al solo scopo di trovare un appunto che avevo lasciato nel portacarte per ricordare a me stesso che il mio biglietto aereo non era ancora stato confermato. Così dovetti rifare tutta la strada fino a Regent Street, con il vento freddo che cuciva la maglietta alla mia pelle, sempre correndo fino agli uffici della compagnia aerea. E naturalmente, quando ci arrivo, la ragazza in uniforme dietro il banco, guardandomi mentre mi asciugo la fronte madida di sudore, mi dice con un sorriso: «Lo potevi fare per telefono, tesoro?» Poi torno a Fulham con i piedi doloranti, niente di pronto, tante cose da fare e senza il tempo per farle. Devo essere a Heathrow domani a mezzogiorno. All'ora di colazione telefonai a Ayla in ufficio. «Ah, sei tu», disse bruscamente quando riconobbe la mia voce. Ci fu un breve silenzio, poi io dissi: «Ayla, non te lo ricordi, domani torno in India». «Sì», disse con un'innaturale nota di imbarazzo nella voce. Stupito le chiesi se ci fosse qualcuno nella stanza. «No, no», rispose con prontezza, «non si tratta di quello, non c'è nessuno». «E allora cosa c'è?», dissi. «Perché hai un'aria così strana? Senti, volevo accompagnarti all'aeroporto per vederti partire. Ci tenevo davvero, lo sai, ma non preoccuparti», dissi io. «Che cosa è successo?» «Beh, ecco», disse, «Nick e io andiamo in Cornovaglia per il fine settimana. Ci prendiamo una piccola vacanza». «È una bella idea», dissi con la mia voce più neutra. «Non devi assolutamente far caso a quello che ti ho detto l'altro giorno», disse d'un fiato. «Ci tenevo a dirtelo, ero molto nervosa e mi sono insospettita. Nick non si sognerebbe mai di fare qualcosa che possa dispiacermi. Dico davvero, non devi credere neppure una parola di quel che ti ho detto. Mi sono inventata tutto, ecco quel che ho fatto, mi sono inventata tutto, ecco la verità. Dopo gli ho parlato e lui mi ha dimostrato quanto fossi stata sciocca. Adesso va tutto bene, abbiamo solo bisogno di una breve vacanza, ecco tutto». Parlava molto in fretta, con un tono innaturale, troppo alto. «Certo che ti credo», dissi, «perché non dovrei? Spero che ve la passiate bene». «So che non mi credi», disse. C'era un nodo nella sua voce, sembrava quasi che stesse soffocando. «Ayla», dissi, «vuoi che venga lì? Stai bene?» «Certo che sto bene», urlò nella cornetta. «Sto benissimo, fai buon viaggio!» Ci fu un clic quando abbassò il ricevitore e cadde la linea. Tornai di sopra alla mia valigia. La sera, intorno alle 7, quando avevo quasi finito di fare i bagagli, cercai di sistemare un piccolo vaso di porcellana in un angolo della valigia. Fu subito chiaro che si sarebbe rotto se ce l'avessi fatto entrare. Grattandomi la testa, mi chiesi che cosa mi avesse spinto a comprarlo. Finalmente me ne ricordai. L'avevo comprato la settimana prima, quando May mi aveva telefonato per invitarmi a cena. Ero così commosso che ero uscito e le avevo comprato un regalo quella mattina stessa. Ecco cos'era quel vaso, il regalo per lei, ed era sottinteso che glielo avrei dato quella sera. Mi precipitai fuori dalla mia stanza, mi lanciai per le scale facendo irruzione in cucina. Al telefono ebbi l'impressione che passasse un'eternità prima di sentire la voce di May. «Salve, May!» gridai con sollievo. «Sto arrivando, sto per uscire. Spero che tu non mi abbia già piantato in asso». «Ma no, perché?» disse. «Non ti aspettavo prima delle 7:30. Sarò da te fra mezz'ora. Prendo un taxi». «Molto bene, non c'è fretta. Vieni quando vuoi». Poco dopo ero in piedi davanti alla sua porta con il piccolo vaso di porcellana in tasca. In seguito, dopo il mio ritorno a Delhi, mi sono chiesto spesso se avrei mai avuto il coraggio di chiedere a May la sola cosa che desideravo chiederle da sempre. Non lo so e non ho avuto modo di scoprirlo, perché lei mi risparmiò la fatica. Fu lei che mise fine alla sconclusionata conversazione sulla mia tesi che aveva accompagnato la nostra cena. Sollevò la testa per guardarmi con i suoi occhi chiari e schietti e disse: «Perché non mi hai mai chiesto come morì Tridip? Pensavo che sarebbe stata la prima cosa che mi avresti chiesto». Le dissi la verità, che non avevo saputo come chiederglielo, che semplicemente non conoscevo le parole, che non avevo avuto il coraggio di infrangere il suo silenzio senza una solida scorta di parole. «Avresti dovuto chiedermelo», disse. «Era un tuo diritto ed è mio dovere cercare di trovare una risposta». Stava seduta, rigida, con le mani appoggiate al tavolo una sull'altra. «Suppongo che tu sappia quasi tutto». Capivo che si era preparata per quel momento. «Stavamo tornando dalla casa a vita di tua nonna», proseguì. «L'automobile venne bloccata da una folla tumultuante. Lo saprei già. Alcuni di loro ci aggredirono. Ruppero il parabrezza e ferirono l'autista. Con noi c'era una guardia armata. Sparò un colpo. Quelli arretrarono. Forse se ne sarebbero andati. Ma lo zio di tua nonna ci seguiva in un risciò. L'uomo che si era occupato di lui in tutti quegli anni guidava il risciò. La folla si diresse verso di loro. Tua nonna voleva che l'autista si allontanasse. Gli gridò di andar via in fretta. Io gridai a lei di rimando e saltai fuori dalla macchina. Tua nonna mi urlò dietro. Disse che non sapevo quel che facevo, che avrei fatto uccidere tutti. Non le diedi ascolto. Ero un'eroina. Non avrei dato ascolto a una stupida vecchia donna codarda. Ma lei sapeva quel che stava per accadere. Tutti lo sapevano tranne me. Ero l'unica a non sapere. Cominciai a correre verso il risciò. Sentii Tridib che urlava il mio nome, ma continuai a correre. Lo sentivo correre dietro di me. Mi raggiunse e mi spinse da dietro. Io inciampai e caddi. Pensai che si sarebbe fermato per riportarmi in macchina, ma lui continuò a correre verso il risciò. La folla aveva circondato il risciò, aveva trascinato giù il vecchio. Lo udivo gridare. Tridib corse verso la folla tumultuante e si buttò sulle loro schiene. Credo che cercasse di farsi largo fino al vecchio. Poi la folla lo sommerse. Scomparve. Riuscivo a vedere solo le loro schiene. Fu questione di un attimo. Poi quegli uomini cominciarono a disperdersi. Mi tirai su e mi misi a correre verso di loro. Gli uomini si erano dileguati tra i canali di scolo. Quando arrivai lì, vidi tre corpi. Erano tutti morti. Avevano squartato Khalil. La testa del vecchio era stata recisa di netto e avevano tagliato la gola a Tridib da un orecchio all'altro. Ecco com'è andata. È tutto quel che c'è da dire. Ricordo che a quel punto sparecchiamo. Io raccolsi un po' di gelato che avevo rovesciato sulla tovaglia e May lavò piatti, coltelli e forchette. Aveva preparato una buona cena, una saporita zuppa di pomodoro e un flan di spinaci e asparagi. C'erano anche il gelato e una bottiglia di vino bianco. Io avevo impiastricciato tutto intorno al mio piatto, come facevo spesso, e mi ci volle un po' per ripulire. Quando ebbi finito, May era ancora in cucina che asciugava i piatti. Guardai l'orologio e vidi che erano quasi le 11. «May», dissi, «devo andare, domani devo prendere un aeroplano». «Già, credo proprio che tu debba», disse vivacemente. Era in cucina, perciò non riuscivo a vederla in viso, ma qualcosa nella sua voce mi colpì. Entrai in cucina e le toccai un braccio e quando si girò verso di me vidi che il suo viso era inondato di lacrime. «Non andartene», disse. «Ti prego, non voglio restare sola. Ho paura». Allora le strinsi una spalla e lei appoggiò la testa sul mio petto e io sentii il suo viso bagnato contro la mia camicia. Le arruffai i capelli una o due volte, poi, temendo di spaventarla come avevo già fatto una volta, cercai di tirarmi indietro. Mi trattenne un istante, poi mi lasciò andare e si rimise in ordine. «Pensi che lo abbia ucciso io?» disse. Rimasi in silenzio, non volevo risponderle. «Lo pensavo anch'io», disse. «Pensavo di averlo ucciso. Mi dicevo, forse non sarebbe sceso dalla macchina se non lo avessi spinto a farlo, se mi fossi resa conto di quel che stavo facendo. Vedi, io non rischiavo nulla. Avrei potuto correre dritta in mezzo a quella folla e non mi avrebbero toccata io, una Memsahib inglese. Ma lui di certo sapeva che sarebbe morto. Per anni sono stata così presuntuosa da pensare di essere in debito con lui della sua vita. Adesso però so che non l'ho ucciso io. Anche volendo non avrei potuto. Lui si consegnò. Fu un sacrificio. So di non poter capire. So di non dover neppure tentare, perché ogni vero sacrificio è un mistero. Mi sfiorò il viso delicatamente con la punta delle dita e disse: «Perché non resti qui stasera? Verrò all'aeroporto con te domattina». Restai. E quando giacemmo quieti l'uno nelle braccia dell'altra quella notte, sentivo che era contenta, ed ero contento anch'io e riconoscente, perché aveva aperto uno spiraglio su una misteriosa redenzione finale.